solito vigor riede a miei sensi. Fini il poter del Silva, ed ogni incanto svanizziami con lei. A te argillano, entro mio sen, fuoco non vide, io servo. Uomo, grifone, l'invito per ti grinda mi lascia, l'autore volto cenno riconduca, al suo primiero leccio il mio crudele. E quando amante cuor nel laccio involto, si allietta gli occhi in mano nell'altera beltà un altro volto.